L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, benvenuti all'Altra Europa, 7 minuti dopo le 12 in diretta su Radio 24 come ogni sabato per raccontarvi l'Europa delle storie, delle persone, delle possibilità. Le coordinate per seguirci anche virtualmente sono le solite: euronetplus.eu, che è il portale del network al quale apparteniamo, radio24.it per poter ascoltare sia in streaming sia poi poter scaricare il podcast, oppure i social network Facebook e Twitter, i nostri account Euronet Plus R24, oppure il mio personale chiocciola Federico Taddia. Lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte da Napoli. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Si parte da Napoli e lo si fa con Valeria Doddi dell'associazione no profit Alveare per il sociale, associazione che ha ideato e sta portando avanti il progetto SOS Scuola, sosscuola.com, il sito internet per conoscere nel dettaglio questo progetto che ha ottenuto il riconoscimento CIVI europeo Premium 2015, il premio del cittadino europeo assegnato dal Bureau del Parlamento Europeo. Buongiorno Valeria, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Allora, cosa sta succedendo in questi giorni a Napoli e non solo a Napoli, perché è un progetto che è già stato applicato in altre città italiane? Esatto, allora, questi giorni a Napoli stanno succedendo tantissime cose meravigliose. Dal 23 maggio abbiamo iniziato, arriveremo fino al 31 maggio all'Istituto Comprensivo Sarriamonti, dove è attivo questo nostro progetto che si chiama SOS Scuola. Questo è il terzo anno del nostro progetto, siamo stati già a Palermo, all'Aquila, a Roma, ad Assoli, e siamo sbarcati quest'anno a Napoli. Il progetto, ci piace ricordarlo sempre, perché nasce da un film che si chiama Il Sole Dentro, perché sì. Noi nasciamo l'Alveare per il Sociale, che la OL nasce come casa di produzione, questa casa di produzione che è stata fondata da Paolo Bettini e da Paola Rota, che appunto hanno deciso nel 2012 di produrre questo film che si chiama Il Sole Dentro, per far conoscere a tutti quanti la storia di Yagin e Sodei, due ragazzi che sono morti purtroppo per portare un messaggio di speranza, ma anche una richiesta di aiuto e di studio per tutti i bambini africani nel 1999. Loro appunto hanno provato a portare una lettera al Parlamento Europeo, non ci sono riusciti, e da questa lettera è nato un film che si chiama appunto Il Sole Dentro. Da questo film, scusate, cerco di essere rapidissima, è nato poi il movimento Fatti Sentire, in cui noi abbiamo invitato tutti i ragazzi che andavano a vedere il film, che è stato un film visto tantissimo nelle scuole negli ultimi anni, li abbiamo invitati a mandarci delle lettere in cui chiedevano al Parlamento Europeo quello che volevano. Uh-huh. E abbiamo consegnato queste lettere al Parlamento Europeo insieme anche alla lettera di Yagin e Sodei. In mezzo a queste lettere c'era una lettera bellissima di un ragazzo di Palermo, che era una sorta di grido di aiuto, di SOS, per salvare un po' la sua scuola, che era un po' vittima dell'incuria e del degrado, proprio per salvare tutti quanti insieme. Quindi abbiamo raccolto, diciamo, questo SOS, però di speranza, ecco. Infatti SOS sta per Scambiamoci Orizzonti per Sognare, e siamo partiti con questa avventura. Quindi che mette al centro le scuole in una sorta di partecipazione dal basso, dove i bambini e le famiglie possono dare consigli. Credo ci sia un pool poi di architetti, si lavora insieme per portare soluzioni concrete. Esatto, noi diciamo effettuiamo il culmine poi di SOS Scuola, sono questi 10 giorni di campus creativo in cui tutti quanti insieme, ma quindi anche i docenti, cioè a noi piace comunque cercare di coinvolgere tutti quanti quelli che sono poi gli operatori che ruotano intorno alle scuole, senza escludere nessuno. per realizzare, per riqualificare la scuola e renderla più vicina però ai desideri poi di quelli che sono principalmente gli alunni, perché poi sono loro al centro. Certo, ma per entrare proprio nel concreto, sì, dacci qualche immagine di quello che sta accadendo in queste ore. Esatto, dico cosa stiamo facendo a Napoli. Allora, innanzitutto stiamo operando su due plessi di questo istituto comprensivo, che va, diciamo, dai bambini più bassi, quindi dalla primaria fino alle scuole medie, e diciamo nel plesso in cui ci sono i bambini più piccoli stiamo riqualificando il cortile interno, che era un cortile, diciamo, molto, molto grigio e completamente spoglio, si sta riempendo di colori, dei colori dello street artist Gianluca, sì, Raro, ma anche con la collaborazione di Urto. Poi pian piano si sono aggiunti tanti elementi e tante persone dal quartiere, in più stanno lavorando gli architetti della Federico II di Napoli, quindi con l'associazione Scolla, con la professoressa Cerreta, con la professoressa Lepore, stanno realizzando, diciamo, una serie di interventi di qualificazione, con la creazione di orti, di spazi in cui i bambini possano vivere poi completamente in maniera anche diversa la scuola. Poi stiamo riqualificando due aulette. E invece nel plesso delle medie stiamo realizzando un atrio, che noi chiamiamo l'atrio spassatempo, che sarà uno spazio in cui i ragazzi potranno vivere la scuola in maniera differente. E anche stiamo cercando un po' di gettare un seme, nel senso che non ci fermiamo qui, vorremmo che poi si proseguisse un percorso di partecipazione, di apertura al quartiere della scuola anche per i prossimi anni. Certo, insomma, è costruire contenuti e contenitori, ma tutti insieme, esatto, andando incontro alle esigenze concrete, esatto, e con, esatto, un occhio anche al bello, esatto, e all'estetica, nel, esatto, senso elegante poi, e funzionale del, diciamo, termine. Che il bello esterno poi si riflette comunque, ovviamente, no, anche in ognuno di noi. Infatti siamo già contentissimi, perché comunque abbiamo già ottenuto dei risultati per noi formidabili, nel senso che veramente si è attivato un quartiere, soprattutto queste mamme di Napoli, che sono delle donne straordinarie, non si stanno fermando, nel senso si stanno allargando a macchia d'olio, quindi le dovremo contenere, hanno ripulito tutta la parte esterna, stamattina parlavano di acquistare i panchie, quindi abbiamo veramente, per me già così è un successo. Ecco, poi ovviamente martedì raccoglieremo tutti i frutti concreti di tutto quello che stiamo facendo, però secondo me un tema importante già l'abbiamo già gettato sicuramente. SOSscuola.com, questo è il progetto per conoscere anche i prossimi interventi e poi nella nuova stagione. Grazie davvero Valeria, complimenti, grazie, a te e a tutto il tuo team. A voi. Buon lavoro. Grazie, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. A presto. Saluto a tutti. Questi sono pezzi d'Europa nel nostro territorio, era Napoli in questo caso. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Hashtag EUFactor alla Sapienza. Il 31 maggio alla Sapienza di Roma torna Hashtag EUFactor, il ciclo di eventi dedicato ai giovani tra i 16 e i 19 anni e organizzato dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dall'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo. L'evento si articolerà in una parte espositiva da visitare e in una conferenza durante la quale famosi scienziati, innovatori e divulgatori racconteranno agli studenti come hanno incontrato la scienza. Hashtag EUFactor sarà l'occasione per guidare i ragazzi alla scoperta delle facoltà di scienze, ingegneria, informatica e statistica dell'Ateneo Romano. Orari e informazioni sul sito eufactor.eu. L'altra Europa. In vigore dal 24 maggio il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, che insomma costituisce un importante salto di qualità. Abbiamo il piacere di avere con noi oggi qui all'Altra Europa Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati. Buongiorno Buttarelli. Buongiorno a tutti voi. Punto d'arrivo, punto di partenza, questa legge finalmente entrata in vigore. Indubbiamente 2 anni massimo per il suo pieno sviluppo, tante novità per chi è in rete, tante novità per chi vuole sfruttare questa occasione per quella che è stata definita una rivoluzione copernicana, visto che ci accingiamo a un nuovo mondo, il mondo del big data, una sorta di quarta rivoluzione industriale che cambierà in modo forse invisibile ma molto più incisivo il nostro modo di vivere quotidiano. Difendere i dati significa difendere le persone. È questo il passaggio culturale che segna questa legge? Sì, questa legge è la prima che dà attuazione concreta al Trattato di Lisbona, che ha introdotto un nuovo diritto fondamentale separato dalla privacy. Il modo con cui gli altri trattano le informazioni che ci riguardano, anche se devono stare obbligatoriamente in rete disponibile a tutti, è un nostro diritto fondamentale. Quindi abbiamo un diritto a che siano tenute in mani sicure, corrette, esatte, che ci sia trasparenza su come vengono gestite. E se qualcuno ci fa un business, è un business sempre più incessante, noi forniamo informazioni anche quando dormiamo a distanza e non sappiamo a chi, tutto questo deve essere in modo più trasparente, anche quando queste informazioni sono usate per la ricerca scientifica e quindi c'è anche un profilo di bene pubblico. Ma sto pensando ad alcuni concetti come l'internet delle cose, l'intelligenza artificiale, le automobili che si viaggiano da solo, sembra un viaggio nel tempo, nel futuro, invece questa è già quotidianità di fatto. C'è consapevolezza nei cittadini di tutto ciò, di cosa significa condividere, esternare questi dati sensibili? Purtroppo no, ed è proprio questa la scommessa, la ragione di questo cambiamento normativo. Noi ci accingiamo ad una vita più facile che offrirà più opportunità nell'interazione degli oggetti, ci darà più informazione con la velocità in rete, ci permetterà di usufruire di tecnologie sempre più avanzate, ma diciamo chi beneficia di tutto questo? Le imprese poche, non più di 6, che ormai sono le più ricche al mondo e che fanno business più elevato, sono quelle che raccolgono informazioni, e anche se lo fanno prestando servizi gratuiti. Questo ci deve far riflettere, perché ormai il grande business è fatto sulle nostre spalle. Quindi c'è un problema di sicurezza delle informazioni. Se noi siamo su un autobus e qualcuno prende, come dire, dolosamente i nostri dati, perché abbiamo una nuova carta di credito di nuova generazione contactless che ci permette di rapinarci senza toccarci in un secondo, questo deve far riflettere. I nuovi frigoriferi saranno diversi, le nuove macchine saranno diverse, quelle in produzione fra poco più di 18 mesi dovranno contenere necessariamente un chip che dirà sempre dove siamo e forse anche perché. Tutto questo va bene, non dobbiamo frenare le nuove tecnologie, dobbiamo guardare con ottimismo, ma ci sono tanti bilanciamenti da fare. Questa quindi è la scommessa anche per la nostra dignità come persone. Quali sono i punti di cui va particolarmente fiero di questa nuova legge? Non è ideale, non è perfetta, ma la circostanza che si dice che le nuove tecnologie devono essere al servizio dell'uomo, e che quindi bisogna porsi il problema di come siamo rispettati nella nuova società dell'informazione. Se qualcuno fa cose alle spalle sui nostri dati, se ci connettiamo con sito web e in realtà ci connettiamo con 150-180 siti web allo stesso istante e nessuno ci dice niente, tutto questo non va bene. Ci vorrà integrale trasparenza, sarà severa la sanzione su chi diciamo non rispetterà questo livello di garanzie, e però è anche una nuova legge che dà grande spazio alle start-up, a giovani che vogliono investire nella produzione di nuove tecnologie privacy e user-friendly. C'è tantissimo mercato per diciamo fare cose socialmente utili dal punto di vista tecnologico, straordinario. E Buttarelli, leggeva anche di questa nuova figura che verrà introdotta, una sorta di responsabile della protezione dei dati personali nelle pubbliche amministrazioni. Sarà lui l'interfaccia tra i cittadini e la legge, di fatto? Esattamente, se ne calcola un reclutamento di almeno 28.000 rispetto a quelli che ci sono già in tutta Europa come livello minimo, persone che potranno quindi in qualche modo accompagnare imprese e pubblica amministrazione in un percorso rinnovato di integrale trasparenza, che dovranno assistere, diciamo, il management nella traduzione in concreto di questi principi in una policy interna, in una pratica che deve essere deburocratizzata. La scommessa è appunto su trasformare queste regole non in un orpello burocratico, in nuovi fogli da firmare, ma in qualche cosa di tecnologicamente sintetico, vissuto con un linguaggio semplice e chiaro che tutti possono capire, anche se in due righe. Sono arrivati diversi messaggi in tempo reale su questa. Prima ha toccato il tema del chip nei frigoriferi, che sarà un obbligo. Cosa racconteranno questi chip? Quello che mangeremo, quelle che saranno le nostre abitudini alimentari? Beh, uno dei temi più dibattuti nel congresso americano non è l'immigrazione, non è l'economia, ma è il chip sulle confezioni del pollo nei supermercati, che sono troppo umide e quindi non permettono al chip di funzionare. Non sto scherzando, perché diciamo questo è stato un test importante per la domotica del futuro. Avremo dei pagamenti cash contactless nei supermercati, e avremo dei frigoriferi, adesso non menziono specifiche marche, ma insomma sono già in distribuzione, frigoriferi che interagiscono e ci dicono quello che abbiamo dentro, se è scaduto, non è scaduto, di che cosa abbiamo bisogno. Quindi apparentemente sembra una cosa molto diciamo fun, però in realtà poi questi dati vengono anche monitorati, vengono anche utilizzati per prestare servizi, per capire di che cosa abbiamo bisogno, per prevedere cosa noi faremo. Tutto questo va bene, anche che qualcuno preveda, ci accompagni, diciamo, in un percorso di tutti i giorni, però qui si va molto oltre il grande fratello. Questa è una società del conformismo consumistico, e quindi ci sono dei pro e dei contro. Le persone che le utilizzano, dal frigorifero alla macchina, devono esserne consapevoli. Grazie davvero. Secure.edps.europa.eu, questo è il sito per conoscere le attività del Garante Europeo della Protezione dei Dati. Buon sabato, Buttarelli, buon lavoro. Buona giornata a tutti voi. Europost-it. Don't waste our future. Nell'ambito della campagna europea Don't Waste Our Future, il Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale ha chiesto ai ragazzi delle scuole della provincia di realizzare diversi progetti di comunicazione contro lo spreco alimentare. Tutti gli elaborati sono in gara tra loro e sono visibili sul sito cooperazionemilanese.org/no-spre-contest. La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente votando il progetto preferito entro il 31 maggio e contribuendo alla diffusione del messaggio contro gli sprechi alimentari. Un premio per l'Europa, un premio per narrare la parità, è il premio, il progetto ideato dall'associazione Woman to Be e patrocinato da numerosi soggetti, sia pubblici che privati, premio lanciato e diffuso nel paese dell'Unione Europea. Ne parliamo con Maria Grazia Anatra, presidentessa di Woman to Be. Buongiorno Anatra. Sì, buongiorno, sono qua, presente. Diamo subito la scadenza, il 4 giugno, quindi prendete appunti, state attenti perché il tempo non è tanto. Di cosa si tratta? Che premio è? Allora, un po' di storia, credo, sì, che debba fare. È un premio nato nel 2011 perché la nostra associazione aveva presentato un progetto presso tramite bando regionale. Non dimentichiamoci che noi siamo toscani, Toscane è un'associazione di promozione sociale toscana. La regione toscana già dal 2009 aveva allestito una delle poche regioni che ha lanciato una legge regionale appunto sulla cittadinanza di genere. Grazie alla legge abbiamo potuto gareggiare e siamo stati selezionati per questo progetto un po' insolito, un premio di letteratura per l'infanzia sul tema della parità, della lotta agli stereotipi. Mm-hmm. E questo ci ha permesso di iniziare nel 2011 con la prima edizione. Tanti errori, tanti sbagli come si fanno sempre, però si è cominciato a parlare di un tema così grande attualità per un pubblico di piccoli, per cui è vero che noi ci rivolgiamo a chi scrive per bambini, anche esordienti assolutamente. Perché comunque però, è un premio per inediti, giusto? Sì, certo, premio per inediti. Faccio notare che l'ultima edizione è stata vinta da una storia di una giovane, veramente una giovane che era proprio alle prime armi, anche se scriveva, non aveva pubblicato niente. E nella prima cinquina, diciamo, dei finalisti, proprio sì, ci sono anche dei nomi famosi, ma ci sono anche dei nomi veramente nuovi. E comunque ci rivolgiamo, vogliamo che questi autori, autrici, si cimentino con dei testi che dovranno essere inediti, redatti in lingua italiana, appartenenti al genere narrativo e che siano rivolti a bambini e bambini della fascia 0-6, per cui piccoli. Perché? Mm-hmm. Perché io, vabbè, sono una donna di scuola, sono anche una docente di scuola superiore, io credo che la testa delle persone, la mentalità, la cultura che poi anima, cambia, trasforma o cristallizza certe azioni, sono quelle da cambiare, sono quelle da trasformare, è la mente delle persone, in questo caso dei bambini e delle bambine. Prima si inizia e meglio è, e invece in genere le azioni formative di questo tipo sulla parità eccetera sono nate, si sono sviluppate fino a questo momento più per un'utenza più grande a partire dalla scuola media superiore, sì. Mentre poco si è ancora fatto si è fatto su quella fascia, ecco perché. Woman2b.blogspot.com, questo è il sito per conoscere il bando. La premiazione verrà effettuata nel mese di ottobre presso l'Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo, quindi proprio per dare una eco europea, e poi l'opera vincitrice verrà pubblicata da Girangolo, marchio della Torinese EDT. Grazie davvero Maria Grazia, buon lavoro. 4 giugno 2016 la scadenza per la consegna dei testi. Buon sabato. Grazie. Ci fermiamo, un euro post-it, la pubblicità poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. European Green Week 2016. Siete persone attente all'ambiente e interessate allo sviluppo dell'economia green? Dal 30 maggio al 3 giugno in tutta Europa torna la European Green Week 2016, il più grande appuntamento annuale per dibattere e discutere di politica ambientale europea. In programma tantissime conferenze ed eventi dedicati al tema Investire per un futuro più verde. Per trovare gli appuntamenti della settimana più vicini a voi, visitate il sito greenweek2016.e. L'altra Europa. As I walk through this wicked world, searching for light in the darkness of insanity, I ask myself, is all hope lost? Is the only inside. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa, sempre in diretta su Radio 24, @ Federico Taddia, mi trovate su Facebook e Twitter e lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, tutto ciò insieme agli europossiti li potete poi ripescare anche sul nostro sito radio24.it. Parliamo di giusti, parliamo di fanatismo, parliamo di dialogo e accoglienza, i giusti del nostro tempo contro i fanatismi per il dialogo e l'accoglienza. È stato infatti il titolo di un importante convegno che si è tenuto qualche giorno fa a Bruxelles, è stato promosso dall'associazione I Giusti, che conosciamo, che abbiamo imparato, abbiamo ascoltato in questi anni le attività portate avanti da questa associazione nata per ricordare le figure esemplari che hanno salvato vite umane, si sono opposte a tutti i genocidi con la foresta dei giusti, che è il loro segno tangibile per fare una memoria attuale e contemporanea. Abbiamo il piacere di ospitare Gabriele Nissim, presidente di Gariwo. Buongiorno Nissim. Buongiorno a voi, buongiorno. Una giornata importante quella che si è tenuta a Bruxelles, una giornata, insomma, sono quelle bombole di ossigeno in questa attualità stridente. Certamente noi così continuiamo a in modo testardo ad andare avanti, perché il Parlamento europeo ha votato questa giornata dei giusti e ogni anno cerchiamo di celebrarla, le celebriamo nelle città italiane, nelle città europee. Adesso abbiamo fatto questo convegno al Parlamento e qui due cose sono importanti. Primo, che abbiamo chiesto al Parlamento dare più forza a questa giornata dei giusti, cercando di farne, di lanciare una raccomandazione, di aprire anche una linea di bilancio per aiutare tutti quelli che vogliono celebrare questa giornata. E poi un messaggio che abbiamo lanciato: chiediamo a tutti i parlamenti nazionali di adottare una risoluzione in appoggio a questa giornata dei giusti. In Italia, per esempio, la deputata Milena Santerini ha presentato alla Camera dei Deputati una legge che speriamo che venga approvata il più presto possibile. Ma poi molto importante è anche il significato che abbiamo voluto dare, perché oggi non si tratta soltanto di ricordare le figure morali, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, quelli che hanno salvato gli ebrei, quelli che hanno lottato col comunismo o anche quelli che hanno salvato gli armeni, ma è molto importante identificare quelli che sono i giusti del nostro tempo, perché questa parola può creare un inganno, no? Perché uno pensa ai giusti, un giusto è un martire, un eroe, un santo. In realtà giusta è quella persona che, quando le istituzioni lastitano, quando c'è una situazione di confusione, di paura e quando anche la gente è indifferente, sono quelli che occupano questo spazio vuoto e si assumono una responsabilità. E allora pensiamo per esempio a due tipi di figure del nostro tempo. Una figura sono quelli che nel mondo arabo musulmano sono in prima fila della lotta contro il fanatismo, contro il terrorismo. Ecco, pensiamo a questa meravigliosa figura di Hassan Bati, no, che a Parigi, durante l'attentato a Charlie Hebdo, no, ha nascosto questi ebrei nel supermarket, no? Oppure pensiamo a questa guida tunisina, sì, che durante quello che è successo al Museo del Pardo, quando gli italiani si trovarono ostaggio dei terroristi, lui li nascose queste persone, questa Bel Salam, no? Oppure pensiamo a questo kenyota, Farah Salah, no? Che ha pagato con la vita durante un attentato terroristico perché non voleva dividere i musulmani dai cristiani. Allora io credo che queste sono figure importanti che noi dobbiamo far conoscere, ma ci sono anche altre figure che salvano i migranti. E c'è una donna splendida che si chiama Catrambone, è una donna che vive a Malta e ha creato con suo marito un'associazione privata che ha messo in piedi tre barche che salvano nel Mediterraneo le vite. Hanno salvato l'anno scorso, pensate, 7.000 vite. Non sono delle barche in mano agli stati. Abbiamo raccontato questa storia, insomma, storie adesso vengono definite virtuose, però sono storie dove di cittadini che si mettono in gioco in prima persona. Questi sono i nuovi giusti. Io credo che questi sono persone che si assumono una responsabilità, e oggi c'è molta confusione in giro, c'è molta paura. E allora noi, io credo che dobbiamo mostrare queste forme di responsabilità, perché io penso che il bene crea emulazione. Cioè, magari tu non convinci le persone ideologicamente, culturalmente, ma quando vedi appunto che ci sono questi musulmani che rischiano la vita per salvare cristiani, ebrei, queste persone hanno un grande effetto di emulazione. Io ho fatto una conferenza poco prima di andare al Parlamento, a Vercelli, con la Sana Batiri. La Sana Batiri ha raccontato agli studenti, alla gente della città, tutta la sua storia. E questo ha creato un modo diverso di vedere i migranti, gli extracomunitari. Ha fatto capire che queste persone sono come noi, e quindi io credo molto nel valore, diciamo, nel valore dell'esempio, perché l'esempio permette di cambiare i punti di vista. Tra l'altro c'è una bellissima notizia che abbiamo lanciato a Bruxelles, e che il 15 luglio nell'ambasciata italiana di Tunisi noi creeremo con il Ministero degli Esteri il primo giardino dei giusti in un paese arabo. Ecco, questa è una data molto importante, di grande significato politico. Grazie davvero. Scusi Gabriele, ma abbiamo il tempo che corre. Insomma, chiuderei con questa notizia, e questo vuol dire che avremo poi occasione per risentirci. Esatto, in occasione di questo 15 luglio, che mi sembra assolutamente una giornata da sottolineare. Gariwo.net, Gari con la W doppia, punto, Gariwo con la, punto do, con la W doppia, punto net, è il sito per conoscere tutte le attività dell'associazione. Buon sabato Nissim, grazie. Arrivederci, buona giornata. Ci fermiamo il traffico, poi rientriamo con l'altra Europa. L'altra Europa. Managing our resources in an effective, efficient and sustainable way is crucial to address today's and tomorrow's global challenges. Policy decisions are behind a series of our daily activities, from the food we eat to the energy we consume at home, while driving to work, or when going on holiday. Science plays a key role in supporting policymakers. Dare un senso alla scienza, questo è il cuore della proposta che arriva dalla Commissione europea, dell'Open Day che si sta tenendo oggi presso il Centro Comune di Ricerca ISPRA. Siamo in provincia di Varese, 10.000 persone attese per andare a toccare, vedere, vivere la scienza in questo che è un centro di ricerca comune per l'Unione, importantissimo, alcune delle teste più brillanti dell'Unione Europea in questo luogo dove la scienza è quotidianità. Ne parliamo con Matteo Fornara, che è responsabile della comunicazione del centro. Buongiorno Matteo, ben ritrovato. Buongiorno Federico, ben ritrovato anche a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Una giornata importante per il centro, si aprono le porte. Sì, oggi è l'Open Day non solo del centro di ISPRA ma della Commissione europea anche a Bruxelles. Qui a ISPRA, al centro di ricerca che tu hai già un pochettino presentato, abbiamo oltre 10.000 persone che visitano i nostri laboratori. Ci sono 402 edifici qui a ISPRA su un territorio di 168 ettari di superficie. È una bella giornata e abbiamo qua molti bambini, molte famiglie che appunto cercano di capire qual è il senso della scienza e come la scienza influisce anche sulle decisioni che vengono prese a Bruxelles e dall'Unione Europea, ovviamente al servizio dei cittadini e dell'ambiente. Ecco, ma il centro di ISPRA cosa rappresenta? Cosa succede lì dentro 12 mesi all'anno? Qui dentro ci sono 42 strutture di ricerca dove lavorano circa 2.000 persone, 1.700 più o meno sono scienziati che provengono da 47 nazionalità, c'è addirittura un venezuelano, tanto per dire una nazionalità piuttosto esotica, e per far vedere che il centro oramai attira il meglio, speriamo, della scienza a livello internazionale. E qui nei laboratori si fa tutta la ricerca che serve per sviluppare poi la legislazione europea. Un esempio, forse il più rappresentativo negli ultimi periodi, c'è il laboratorio che definisce gli standard sulle emissioni dei veicoli, quindi i famosi codici Euro 4, Euro 5, adesso l'Euro 6, vengono definiti dalla legislazione europea sulla base della ricerca che si fa qui a Ispra. Abbiamo delle grandi sale dove entrano dai motorini, anche quelli truccati dei ragazzini, fino ai grandi tir e i camion e le macchine ovviamente, e viene effettuato un'analisi, un test sulle emissioni che questi camion producono, questi mezzi producono, proprio per renderli, diciamo, compatibili con gli obiettivi nel settore dell'Unione Europea. Questi Open Day hanno appunto la finalità di avvicinare un po' quello che è il palazzo ai cittadini, in più c'è l'elemento scienza, che comunque è molto calamitante, soprattutto nei confronti dei più piccoli. E con che occhi stanno entrando, con che occhi stanno varcando le porte del centro? Io direi che anche per gli scienziati del centro è un giorno di sorpresa, perché la sorpresa te la danno proprio gli occhi dei bambini, dei ragazzi, anche perché ci sono anche tante scuole superiori oggi qua, che scoprono con le loro mani, toccano con le loro mani cosa vuol dire fare ricerca. Toccano nei laboratori i pannelli solari, toccano i materiali che vanno a contatto con il cibo, quindi le scodelle, le vedono rovinate perché magari ci sono dei cibi che corrodono e che quindi non devono più essere utilizzati, dei prodotti nella nutrizione. La nutrizione è un altro settore importante per noi, dopo che abbiamo qui da Ispra coordinato la partecipazione a Expo Milano l'anno scorso. Lo facciamo soprattutto per loro, direi per le famiglie e i bambini, che alla fine ci danno la grande soddisfazione di capire, forse più degli adulti, cosa fa l'Unione Europea al servizio dei cittadini e della tutela dell'ambiente. E quelle che sono appunto le ricadute nella nostra quotidianità, non nel rapporto tra scienza e vita di tutti i giorni. Matteo, qual è il rapporto tra il territorio e il centro, al di là di oggi che c'è l'Open Day, ma è veramente un pezzo d'Europa alle porte di Varese? Sì, certo. Ispra è il terzo, per dimensioni, è la terza sede della Commissione Europea, dopo Bruxelles e Lussemburgo. È basata in Italia e quindi è una presenza importante anche per il nostro territorio. Tra l'altro molti laboratori sono condivisi con delle autorità locali come la Regione Lombardia e altri livelli, e qui ovviamente il centro rappresenta anche, diciamo, una, se posso esprimermi con un termine un po' gergale, una botta di vita per la regione, perché appunto ci lavorano tante persone che provengono da molti paesi, quindi portano anche una cultura, un'alimentazione, una dimensione più europea alla regione. La ricaduta anche economica è abbastanza importante, non così tanto come le istituzioni a Bruxelles, ma comunque si parla di 2.000 persone che lavorano dentro con le loro famiglie, che studiano, i figli studiano alla scuola europea di Varese, e le opportunità, insomma, di contatto con il territorio sono molteplici. Tra l'altro, per esempio, ogni volta che c'è il semestre di presidenza dell'Unione, il paese responsabile organizza delle attività culturali. Di fronte a me qui al centro, sì, all'inizio c'è il simbolo della presidenza olandese che è in corso, che è una mucca, un'enorme mucca che ha i colori, l'arancione ovviamente il colore dell'Olanda, e così facendo nei 6 mesi di presidenza, in questo caso olandese, il paese fa conoscere qua in zona. Grazie davvero a Matteo Fornara, responsabile della comunicazione del Centro di Ricerca Comune di Ispra. Buon lavoro, ciao Matteo, buon Open Day. Grazie mille, arrivederci. E con questa visita che abbiamo fatto al centro chiudiamo la puntata di oggi dell'Altra Europa. Vi ricordo radio24.it per poter scaricare il podcast e riascoltare la puntata, oppure euronetplus.eu. Grazie a tutta la squadra, Andrea Roccabella oggi alla parte tecnica, Claudia Scattone in assistenza, Silvia Righini e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata. L'appuntamento è sabato prossimo, quando saremo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento con una puntata live, e quindi vi aspettiamo là se siete al festival, insomma, per vivere insieme una puntata. Ancora grazie, ancora buon sabato, ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.